innae scesa dando til braccio almeno un milione di scale, non la trovo più, non sa più dove andare, ha disegnato una sveglia sul polso, vuole dare fuoco alle chiese. Aveva una felpa con un orso sopra, andava in giro con un corvo in mano, fumava sigarette usate, non alleati solo una casa nell'oltre tomba per guardare due bambini giocare che sventolano un aquilone. Ninna si siede sul soffitto, disegna tigri chiudendo gli occhi, fischia e legge gli occhi di tutti, scrive lettere alle statue, vede la cenere fare paracadutismo dalla tua bocca. Ora è sulle nuvole a disegnare nidi di rame. Fosse sotto agli occhi, ci nasconde se stessa quando non sa.